the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese, le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti gli Andromeda. Sono 98.6 per la bassa veronese e zone dell'Alessinia e 101.5 per Verona città e rimanente provincia. Radio RCS la potete ascoltare anche in streaming dal sito www.radiorcs.it. Passiamo dal progressive rock alla dark wave degli anni fra il 70 e l'80. Come prima canzone ci siamo ascoltati Spellbound dei Siouxsie and the Banshees dal disco Juju del 1981. Band seminale per il genere che ha percorso i tempi per ciò che riguarda le sonorità, che ne dite? Certamente, penso che i Simple Minds e i Cure hanno preso ispirazione anche da questo sound di questo gruppo. Sogni, lacrime, giorni bui è il titolo del vostro disco. Qual è il significato che sta dietro questa frase? Questa frase l'abbiamo presa da una nostra canzone, Ulisse, e tende a sottolineare gli stati d'animo che aveva Penelope nell'attendere appunto Ulisse dal ritorno dal suo viaggio. Noi l'abbiamo presa perché tende un po' a sottolineare tutti i vari aspetti che sono nel disco. Ci sono i sogni, come la canzone Andromeda, sono le lacrime, La vita va, e poi ci sono anche i giorni bui in canzoni come Andiamo via. E allora nel 1984 gli Echo and the Bunnymen sfornano Ocean Rain, il loro massimo capolavoro. Rivalutati anche attraverso il cinema, li riascoltiamo da quel disco con la canzone Silver. We'll be right back. chandelier, my planet sweet on a silver salver, bailed out my worst fears. 'Cause man has to be his own savior, blind sailors, imprisoned jailers, God tamers, no one to blame us. The sky is blue, my hands untied, a world that's true through our clean eyes. Just look at you with burning lips, you're living proof of my fingertips. Walked on a tidal wave, laughed in the face of a brand new day, food for survival for. Atmosfere romantiche e decadenti che all'epoca fecero proseliti. Secondo voi cosa affascina ancora di questa band? Beh, sicuramente le sonorità e il clima, l'ambiente che creano, che è un po' anche un po', diciamo, quello che facciamo noi come Androma, nel senso meno attenzione magari per i riff più complessi che, ma badiamo al sodo e all'atmosfera e alle sensazioni che creiamo con la musica e con le parole. Voi avete anche partecipato ad alcuni contest sia veronesi che di altre province. Come vi siete trovati e che esperienza ne avete tratto? Beh, ci siamo trovati molto bene a questi contest, in quanto ci hanno dato la possibilità di far conoscere la nostra musica sia in provincia che fuori. E comunque abbiamo constatato che non sempre vince il migliore. Bisogna anche sapersi un po' accontentare dei risultati, anche se non sono sempre a favore della nostra band, insomma. Chiudiamo allora la seconda parte con i Cure, la band di Robert Smith. Quest'anno compie 30 anni di storia musicale e con loro torniamo al 1980 con il disco Boys Don't Cry e la canzone Jumping Someone's Train. Noi torniamo dopo la pubblicità con gli Andromeda, che ci faranno ascoltare 6 canzoni dal loro disco Sogni, Lacrime e Giorni Bui. Non mancate! Jumping, someone else is trying.